later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli la giornata e la nottata coincidono in ogni momento, Kappa e Drago hanno le trabeccole. Vedi, Drago, vedi, siamo a Parigi. È vero, ma com'è possibile? Sempre a Parigi. Sto sognando. Ah. Oppure sei tu che stai sognando. No, ma a me sembra di essere sveglio, guarda. Vabbè, anche a me, ma evidentemente non siamo svegli. No. Scusa, questa è Parigi vista dall'alto, vedi, da Montmartre. Non ci sono dubbi, vedi, la Tour Eiffel, laggiù, la vedi, a destra. Ma chi mi prendi? Certo che la vedo, non è un traliccio gigantesco la Tour Eiffel. Sì. Parigi! La Tour de Montparnasse, quella lì nera. Les Invalides, in centro. E di tutto il resto è Parigi, effettivamente. Arriva fino all'orizzonte, guarda, non se ne vede la fine, eh. Forse laggiù un po' di colline. Che bello. Qui davanti hanno ambientato il favoloso mondo di Amélie. Vabbè, buona ragione per svegliarci immediatamente e tornare alla fabbrica. Ah, rieccoci qua, era ora. Ma dai, ma come era ora, Drago? Parigi, Montmartre, Pigalle. Sì, però anche Amélie. Io quando vedo quella faccia da scema di Amélie divento nervoso. Così. Un po' hai ragione. Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone. Trombone, monotone, incendone, à demi nu frissonne, guérisonne, m'empoisonne. Certo che a Parigi fa un freddo porco, eh. C'est l'Europe du Nord. Senti, l'Europe du Nord, ho capito, però siamo a Parigi, non a Reykjavik. A Reykjavik ci sono 7 gradi, ce ne sono almeno 11, quindi... Wow, che differenza. A Montmartre, caro Drago, quando c'è stato il film di Amélie, la birra piccola costa 10 euro. Vabbè, un altro miracolo di quella faccia da intelligentone. Il miracolo dell'aumento dei prezzi, compreso quello della verdura, perché nel negozietto che si vede nel film... Tu non hai idea di quanto costi la verdura, un finocchio, che ne so, sai quanto costa un finocchio lì dentro? Costa più o meno di un finocchio di Pigalle. Black trombone, monotone, c'est l'automne de ma vie, plus personne ne m'étonne. J'abandonne, c'est fini. Il est mort, il est mort, il est mort. La fabbrica di polli. Polli della fabbrica, attenzione! Silenzio! Ho detto silenzio! Devo comunicare i risultati dell'esperimento fabbrica biologica tenuto la scorsa settimana. So che questo è un momento che la nostra comunità sta attendendo con trepidazione. Siamo alla vigilia di una nuova era, o la triste stagione del lager continuerà il suo corso vergognoso? Certo, sarebbe stato preferibile ascoltare i risultati dell'esperimento dalla viva voce dell'amministratore delegato, ma purtroppo momento impegnatissimo in affari urgenti e inderogabili. Attenzione, il numero selezionato è inesistente. Ancor meglio, sarebbe stato conoscere la nostra e la vostra sorte dalla voce del direttore Valtania, ma com'era prevedibile, il direttore non c'è. Sì, no, non c'è, lo trovo lunedì. Quindi, tocca a me annunciare questa importante decisione. Leggo dal comunicato ufficiale. Il Consiglio di Amministrazione, riunito in seduta plenaria alla mezzanotte di un giorno che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno 2007, ha analizzato i risultati della sperimentazione attuata nella fabbrica. La sperimentazione prevedeva un regime di allevamento biologico di parte degli animali e un regime di lager per gli animali rimanenti. In base a complicate procedure, di cui non capireste un tubo, i risultati confermano che il regime di lager è quello che in assoluto difende gli interessi del maggior numero di parti coinvolte, che poi, tradotto in italiano, sarebbe a dire tornatevene alla cacca e non pensateci più. Hai capito, K? Il regime di lager difende gli interessi del maggior numero di parti coinvolte. E quali sono queste parti coinvolte? Il produttore. Una. Il negoziante. Due. Il consumatore. Tre. E basta. E i polli? Vabbè, sì, i polli sono una parte a cui conviene l'allevamento biologico contro tre a cui non conviene. Vabbè. Quindi la legge della democrazia è che chi ha la maggioranza governa. Poco da fare, ha vinto il lager. Vabbè, ma che cosa ti avevo già detto in partenza? Bisogna sempre imparare dalla storia. Da sempre, quando un popolo si è messo in testa di sterminare un altro, ha scelto la soluzione dei campi di concentramento e di sterminio. Non vedo perché un allevatore di polli moderno dovrebbe discostarsi da quello che hanno fatto i suoi grandi predecessori, Caligola, Mao Zedong, Hitler, Stalin, Pol Pot e via dicendo. Cosa stai dicendo? Ma Drago, cosa c'entra il nostro amministratore delegato con gente come Pol Pot, Caligola e Hitler? Dai, si trattava di avere carni migliori, uova più genuine, mica di sterminare un popolo di polli. I galli, in quanto polli, sono già stati sterminati dai romani un po' di secoli fa e senza campi di sterminio, semplicemente perché avevano un condottiero senza paura, di nome... Trifali. Guten Tag, sono Kaiser Chiesa. Ma che sta di Cesare? Lei non è tedesco, lei ha da parlare ladino. Ladino? Appunto, ladino del Svizzera. Ma che ladino del Svizzera? Ladino de Roma. No, romancio de Roma. Semo, semo, Roma, de Roma. Io lavoro di notte per stare da solo in silenzio, lavoro la notte e mentre lavoro io penso che meno gente vedo e meglio sto. Sarò misantropo, lo so, ma al pop del giorno preferisco il sol perché correnti, no? Tipo quando ti rapiscono un parente. Così da un giorno all'altro quel che è tuo diventa loro, eh? Perché tu, secondo loro, non sei capace di gestire la tua vita. Allora hai bisogno di qualcuno che lo faccia per te. Loro, invece, sanno come gestire i tuoi soldi, eh? E perché loro sono illuminati, Hai capito come funziona, Quando sarai illuminato anche tu, magari qualcosa potrai anche deciderlo. Ma per intanto, fai quello che dicono loro. E buonanotte. Che cosa succederà adesso? Tarek diventerà un illuminato o resterà per sempre confinato al ruolo di comprimario perdente? E Giulio Cesare imparerà a parlare ladino? Ladino del Svizzera! Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo metastorico allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non La Fabbrica di Polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com. Polli. Polli. Polli, provo a dirlo.